Cosa farò ora che tu vai via? Dimmi cosa farò, cederò alla pazzia per scordarmi di te. Farò il diavolo a tre, sarò forte domani, vedrai, sarò forte. Senza problemi, senza paura.